Il pot di rosa. Molto, molto tempo fa, in un regno molto lontano, una regina diede alla luce una bellissima bambina. Invitò la sua migliore amica, la splendida regina bianca dei boschi, con suo figlio, per vedere sua figlia. Ma mentre la regina dei boschi stava viaggiando verso il palazzo della regina, un disastro accadde. Il mago malvagio aveva seguito la regina dei boschi nel regno. Quindi eccoti qui. Dov'è quel tuo figlio? E chi è questo bellissimo bambino? È lei quella? Non osare avvicinarti. Portali fuori, adesso. Oh, mi fermerai, vero? Per quanto tempo scapperanno da me? Fino a quando tuo figlio avrà compiuto 21 anni, continuerò a perseguitarlo. Sono passati molti anni ormai dall'epica battaglia. Passiamo ora all'altra parte della storia. In un piccolo villaggio, non molto lontano dal regno, viveva un contadino con suo figlio Stefan e sua figlia Felicia. Il contadino era molto povero e possedeva poco. Quando si rese conto che era tempo per lui di lasciare il mondo, chiamò i suoi figli. «Miei cari figli, per tutta la vita vi ho amati con tutto il cuore. Le uniche cose che sono quello che vedete, la gallina, i due sgabelli, il tappetino di paglia, quel vaso di fiori e questo anello d'argento. Mia cara figlia, darò a te questo vaso di fiori e l'anello d'argento e, figlio mio, puoi avere tutto il resto». «Padre, non ho bisogno di possedere nulla. Tutto ciò che desidero da te sono il tuo amore e le tue benedizioni». «Oh, mia amata figlia, c'è così tanto che dovrei...» E il contadino respirò per l'ultima volta. Il fratello prese due sgabelli, il tappetino e la gallina e lasciò che Felicia avesse il vaso di fiori e l'anello d'argento. «Questo anello dovrebbe procurarci delle monete per vivere». «Ah, no, fratello. Mio padre mi ha dato questo anello. È tutto ciò che mi rimane di lui. Non mi separerò mai da esso». «Come ti pare, ma non aspettarti che io mi occupi di te, sorella. Da ora in poi devi badare a te stessa. La gallina, le verdure dell'orto e tutto il resto sono mie e soltanto mie, persino le uova della gallina». Felicia era così rattristata nel vedere suo fratello così egoista. Pensò che non si sarebbe mai sentita felice o amata di nuovo. Poi guardò il vaso di fiori che stavano quasi morendo perché erano senza acqua. «Oh, cari fiori! Vi sentite non amati e non curati anche voi? Siete tristi come me? Eppure avete un profumo così dolce, la fragranza più bella di tutto il mondo. Vi amo, miei cari fiori, e vi amerò per sempre. D'ora in poi saremo migliori amici e mi prenderò cura di voi e vi curerò con tutta me stessa. Avete bisogno di un po' d'acqua? Aspettatemi, ne vado a prendere un po'». Felicia corse fuori alla fontana in un palazzo in rovina vicino alla foresta. Aveva appena iniziato a riempire la sua brocca vicino alla fontana quando sentì una musica meravigliosa e vide uno spettacolo incredibile. «C'è qualcuno dietro la fontana. Per favore, chiunque tu sia, vieni qui. Non hai nulla da temere». «Mia signora, perdonatemi, non avevo intenzione di spiare. Non sapevo che sareste stata qui». «Va bene, figlia mia. Oh, sei così graziosa e bella. Hai già cenato?» «No, altezza. Quindi, per favore, cena con me. Vieni, siediti. Siete molto gentile, mia signora». La stessa regina dei boschi ha servito Felicia. Il cibo aveva un sapore migliore di qualsiasi cosa Felicia avesse mai assaggiato. Quando il pasto fu finito... «Grazie mille, mia signora. Non possiedo molto, Ma c'è un vaso di fiori che amo più di ogni altra cosa al mondo. Sono i fiori dall'odore più dolce che io abbia mai sentito. Lascia che te li regali, in segno di gratitudine. Non hai niente per cui ringraziarmi, mia cara. Ma se ti rende felice, sarò felice di accettare il tuo vaso di fiori. Grazie, signora. Aspetta un pochino. Corra a casa e lo vado a prendere. Sì, aspetterò. Prenditi tutto il tempo. Quindi Felice corse a casa a prendere il suo vaso di fiori. Ma quando andò alla finestra dove giaceva il vaso, trovò lì solo un cavolo. Stefan aveva rubato il vaso di fiori e l'aveva sostituito con un cavolo. Piena di tristezza, Felice tornò dalla regina dei boschi. Mia signora, mi dispiace tanto, ma sembra che mio fratello abbia preso il mio vaso di fiori. Ma per favore, accetta questo. Questo è tutto ciò che possiedo e desidero che lo prenda tu. Ma se prendo io questo, non ti rimarrà nulla. Mia signora, la tua amicizia è abbastanza per me. Molto bene. Non ti preoccupare, mia cara. Tutti i tuoi problemi finiranno presto. Ecco la tua brocca. Hai dimenticato di portarla con te. Ah! Solo un regalo da Dio da parte mia. E ci rivedremo, mia cara. Ci incontreremo all'inizio della 21ª alba. Quindi la regina dei boschi scomparve in un lampo di luce. Felice rimase lì a bocca aperta. Felice tornò a casa con la brocca, ma il suo cuore doleva per i suoi fiori, perché li amava più di ogni altra cosa al mondo. Guardò il cavolo, che si trovava dove erano i suoi fiori, e in preda alla rabbia lo prese e stava per buttarlo fuori dalla finestra quando sentì una voce strana. No, per favore non buttarmi. Sei un cavolo e parli? Non ho mai parlato prima, ma forse a causa dell'arrivo della 21ª alba. Se mi pianterai con i miei compagni, ti dirò che i tuoi fiori sono sotto il letto di tuo fratello Stefan. Quindi Felice andò in giardino e piantò il cavolo. Corse nella camera da letto di suo fratello e vide un intero esercito di topi che cercavano di prendere i fiori. Felice era inorridita. Tutto ciò a cui riuscì a pensare fu di salvare i suoi amati fiori. Fu di prendere l'acqua della brocca perché sperava che avesse un po' di magia. Oh, i miei amati fiori! State bene! Ero così preoccupata! Oh, sì, stanno bene! Perché pensi il contrario? Sei una gallina che parla? Non so come! Non ho mai parlato prima! Deve essere l'arrivo della 21ª alba! Cos'è questa 21ª alba? Beh, non c'era mai stato un segreto che io sia mai riuscita a mantenere. Quindi la regina dei boschi mi ha trasformata in una gallina. Vedi, io sono la madre di Stefan. Un giorno una regina proveniente da una terra lontana venne alla nostra porta. Aveva avuto il bambino più bello che io avessi mai visto in vita mia e ne ho visti molti perché ero un'infermiera. La regina era malata ed esausta, così le promisi che mi sarei presa cura di te come di mio figlio. Poi un giorno la regina dei boschi venne qui con un vaso di fiori e un anello e chiese a mio marito di darteli quando saresti cresciuta. Prese con sé la regina e prima di andarsene mi trasformò in una gallina in modo che non sarei mai stata in grado di dire il segreto a nessuno fino all'ultima notte prima della 21ª alba. E questo è tutto ciò che so. Oh, guarda, è già l'alba! Quando Felice vide apparire la regina dei boschi, corse fuori nel giardino per salutarla, lasciando dietro di sé i fiori. La regina era di fronte a lei, sorridendo. Ah, mia cara Felicia, la mattina che aspetto da anni. Vedo che l'infermiera ti ha detto molto, ma non ti ha ancora detto tutto. Mia signora, dov'è mia madre? Posso vederla? Ti porterò da lei. Lei è in un posto sicuro. È a causa mia, mia cara, che il mago malvagio ti ha attaccata. Come regina dei boschi, dovevo proteggere la tua natura dal mago malvagio, che voleva controllarla. Dato che non riusciva a sconfiggermi, decise di porre fine al mio regno togliendomi mio figlio, perché non avrebbe ereditato i miei poteri magici fino a quando non avesse compiuto 21 anni. Sapevo che il mago malvagio avrebbe continuato a cercare lui e te fino a quando non vi avesse trovati, e quindi ti ho lasciata crescere qui come una normale contadina in modo che non ti trovasse. Perché dovrebbe farmi del male, mia signora? Perché dovevi essere il vero amore di mio figlio, e il potere di quell'amore lo avrebbe protetto. Allora dov'è tuo figlio? Eccomi, mia cara. Il tuo amore lo ha protetto, mia cara. Il mio amore? Ma io non l'ho mai visto prima. Ah, sì che l'hai visto. Lo hai amato più di quanto tu abbia amato qualsiasi altra cosa al mondo. Il vaso di fiori. Il vaso dei fiori? Avevo trasformato mio figlio in un vaso di fiori, in modo che fosse vicino a te fino all'età del 21° compleanno. Oggi è l'alba del suo 21° anno. La 21ª alba? E il mago malvagio? Che ne è stato di lui? I topi erano il suo esercito e anche questi cavoli. Ora che mio figlio ha compiuto 21 anni e ha ereditato tutti i miei poteri, il mago cattivo non può fare nulla, soprattutto perché il tuo amore lo proteggerà per sempre. Non è vero? Lui mi ama? Ti amo più della mia vita, mia cara. E con il passare dei giorni questo amore diventerà ancora più profondo. Sarai disposta ad accettarmi come tuo marito? Ah, sì, lo farò! Ora, tutti i tuoi problemi sono finiti, mia cara, e tornerai al tuo posto legittimo come principessa. Ti porterò da tua madre e celebreremo il tuo matrimonio con un vero fasto e splendore. Ma prima, dimmi, come vorresti punire tuo fratello cattivo? No, mia signora, ho scelto di perdonarlo. Ti ha preso l'unica cosa che amavi e lo perdoni? Sono così felice e grata che voglio che tutti siano felici. Trasforma l'infermiera gentile nella sua vera forma e lascia che lei e suo figlio vivano bene e felicemente. Molto bene, mia cara. Non avranno più bisogno di altro. Stefan vivrà come un gentiluomo compassionevole. Un vero figlio ideale per sua madre. Così tutto andò bene. La principessa Felicia si sposò con il principe Fiore e vissero felici e contenti.